init music. Init for you. Init your music for you. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Go back to those cold sounds and keep my anthem to yourself, because it's nothing I don't like. Is it a crisis or a boring change when it's central, so essential? It has a nice ring when you laugh at the low-life opinions, and they're coming to the chorus now. I keep my address. Golden Sounds di Pavement, questa è Music for You for Radio Share 97.800, Radio Sannona 102.2. Era un progetto un po' lo-fi che parte all'inizio degli anni 90. Perché l'abbiamo scelta, Alvise Favotti? Innanzitutto buonasera. Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, quindi quei quattro, due siamo noi, e per cui si immagina che o i nostri padri o le nostre madri non stiano facendo il loro dovere. A questo punto l'abbiamo scelta perché i Pavement sono il gruppo che forse ha dato maggior spolvero, a parte i Sonic Youth, a Matador Records, di cui ci occupiamo questa sera in una nuova puntata monografica. C'è da che essere contenti, penso, no? Anche sì. Secondo noi sì, perché ce la siamo scelta e ce la siamo goduta, nel senso che di solito abbiamo un ospite, questa sera neanche quello. Chi è che ti dà un servizio presentazione etichette? Cioè, mi è fatto Touch and Go Records, poi? Abbiamo fatto Mowox. Adesso è il turno Matador. Senza poi dimenticare Rough Trade, che abbiamo sempre presentato in compagnia di Massimo, dei Mr. Coma, che salutiamo anche, visto che siamo qui, salutiamo anche Strifu, che ci ha aiutato con Mowox quella volta. Dovrebbero arrivare nuove leve. E dovranno arrivare nuove leve nella figura del compianto Lorenzo Monni, che ci promette che farà una puntata da lui ideata e condotta su Warp. Noi dovremmo ancora provare questa puntata in ogni caso. Però noi vogliamo bene e crediamo tanto in Lorenzo, quindi lo vorremmo qui tra noi. Si diceva Pavement, per cui raccontaci qualcosa, Favotto, su sulla carriera di Stephen Malkmus e compagnia. Allora, Stephen Malkmus, dovete sapere innanzitutto che è un figlio delle stelle e delle strisce, nel senso che è un cantautore statunitense che decide di laurearsi in storia, tornare a Stockton, città che gli ha dato i natali. Dov'è Stockton? Stockton, città negli Stati Uniti, non meglio specificata, credo sì, in Ohio. Dopodiché però, ditemi di no se non è vero, ma comunque lì chi trova a Stockton? Sì. Trova Scott Cannenberg, e questa è una presenza molto importante perché Scott è un suo amico d'infanzia. Pensavo il benzinaio di fiducia. No, con il quale Stephen, Scott sa suonare la chitarra, Stephen anche, quindi si mettono insieme e fanno una band. La band sono i Pavement, che tanto ha dato alla discografia underground statunitense e mondiale. E uno dedica all'altro il 91 Summer Babe. Esattamente. Chi sono, diciamo, le coordinate musicali dei Pavement? Beh, i Fall innanzitutto, i Sonic Youth già citati, certi REM e sicuramente i Pixies. Pubblicano con Matador Records una serie di prodottini non da poco, e Matador Records ospita anche, diciamo, i progetti paralleli dei Pavement. Perché? Perché sia Stephen Malkmus che Scott Cannenberg si prendono delle pause più o meno lunghe dai Pavement e danno sfogo alla loro creatività. Come lo fanno? Stephen Malkmus con un progetto solista chiamato Stephen Malkmus and the Jicks. E mentre Cannenberg, Scott, il benzinaio, dà vita ai Preston School of Industry. Entrambi i progetti li trovate nel roster di Matador Records. Matador Records che nasce a New York, giusto? Nel 1989 inizia l'avventura di questo Chris Lombardi in un appartamento in New York City, e la prima produzione di una traccia che ci siamo sentiti di escludere, l'avevi portata te, Allen, nel Super Chunk. Eh sì. Ma non l'abbiamo messa perché in catalogo tra i rooster della Matador Records, questo dei Super Chunk è forse l'episodio peggiore. Sarà che pagavano lo scotto proprio della prima esperienza. E però all'interno poi di tutto quello che è il mondo Matador ci trovate una serie di cose interessantissime. Allora, diamo delle coordinate musicali di questa etichetta. Quelle bancarie nostre arrivano dopo. Anche perché, voglio dire, cioè, ci trovate po' di soldi. Le coordinate musicali di Matador: post-punk, una certa wave di matrice americana, quindi quello che si sviluppa in America, in sostanza pre-Nirvana. Sì. Pixie, REM, Sonic Youth e tutta una serie di band che prende spunto da qui e reinterpreta questi messaggi in chiave, diciamo, giustamente personale. Poi vabbè, il panorama si è allargato, per cui si era dato vita a un movimento un po' indie, lo fai, come diceva bene Allen, nei primi anni 90 e alla fine degli 80, proprio perché è cominciata nell'89 l'avventura di Matador. Poi il catalogo si è aperto, viste la succursale di Londra di Matador Records, ma andremo a spiegarlo in corso di puntata. D'altronde cercheremo di seguire un ordine tra virgolette cronologico, ordine sì, che però non va seguito per quanto riguarda la prossima traccia, perché scivoliamo un po' in avanti ed è un bel scivolamento di ben 9 anni, perché andiamo nel 1998. Esatto. Entrare nel sito di Matador ci ha regalato del grande ordine mentale di cui normalmente non disponiamo. Matador organizza il catalogo distinguendo le sue band tra band che ha ancora in catalogo, quindi che continuano a produrre stabilmente per Matador, e alumni, ossia band che sono passate per casa Matador per un po' di tempo realizzando magari uno o due dischi e poi se ne sono andate blandamente. I Pavement rimangono lì fissi e tacchenti, come diceva anche Aristotele ai tempi, sì. E un altro gruppo che rimane lì incastonato come i ciccioli nella cioccolata, chi è? Piantano le tende e non sono canadesi, inglesi come i Birds of Canada, e sono gli Interpol dal 1998 attivi sulle scene di New York, arrivati con una caterva di proseliti assieme ai Block Party, che però avevano a che fare con Wichita Records e tutt'altra ondata, però un'ondata musicale invece parecchio simile tra le due, tra i due perlomeno, sì, nelle produzioni iniziali per i primi due CD. Sì, a questo punto Interpol, credo che non ci sia molto poi da dire degli Interpol, perché se ci hai ascoltato almeno una volta, gentile radioascoltatore, capisci che a noi piacciono. A questo punto andiamo a sentire che cosa. Noi andiamo ad ascoltarci Say Hello to the Angels, che è il primo estratto, primo singolo dal loro secondo album, che porta il titolo come Antics. Il primo era e forse è il migliore Turn on the Bright Lights, dal quale è stato estratto il famoso titolo che a te piace tanto, Stella Was a Driver and She Was Always Down. Non so perché me la ricordo sempre, ma in effetti a me piace non solo il titolo ma anche la canzone. C'era anche una facile PDA o Obstacle One, queste sono quelle che mi ricordo a tuttora. Il terzo album è Our Love to Admire, quello di Heinrich Manöver. L'ultimo è uscito, è omonimo, si chiama Interpol. Loro hanno parecchie influenze un po' dalla Cure, un po' da quella parte di Wave, un po' di Joy Division, un e po' edulcorati. Di New Order, e però con un sound un poco più attuale. Andiamo allora ad ascoltarci gli Interpol da New York, questa è Say Hello to the Angels. Say Hello to the Angels, questi erano gli Interpol che si giocavano la piazza anche con gli Editors, mi sono ricordato, durante... Che con i White Lies, se vogliamo. Sì, sì, anche se i White Lies sono arrivati un ninin dopo. Insomma, se la giocavano tra Editors, Block Party e Interpol, tre etichette diverse, ma noi questa sera stiamo approfondendo la Matador. Olé! E in questo momento mi permetto di ricordare anche il compianto Tito Santana, non che sia morto, ma un grande wrestler di quando noi si era all'elementare. Io pensavo come Hulk Hogan, sì. Mr. Crocodile Dundee, che non c'entra assolutamente niente. Hulk Hogan di nuovo, The Ultimate Warrior, questa gente qua. Io pensavo Tito di Tito e Tarantula e mi stavo chiedendo se anche loro fossero sotto a Matador Records, visti i suoni spagnoleggianti, ma penso anche di no. Penso anche di no. Chiedere a Tarantino per informazioni, sostanzialmente. Esattamente. Adesso, nella fattispecie del cui presente Daniele Terzariola, andiamo a riesumare quelli che sono gli inizi dell'attività di Matador. Ci dicevi prima, nasce nell'89. Dalle manine di chi? Dalle manine di Chris Lombardi, Attilio Lombardi, Pelati e Bastardi. E nel 1990 incontra Gerard Cosby, padre della Homestead Records. Insieme si uniscono mano nella mano e decidono di dare vita, per l'appunto, alla Matador Records. Homestead Records, che bisogna dire, andatevi a vedere un po' il roster, ha dei nomi assolutamente interessanti. E io vedo almeno due collegamenti tra Homestead e Matador. Uno, il più evidente, sono sicuramente i Sonic Youth. Un altro è la scena glasvigiana, ossia la scena della città di Glasgow. Perché? Perché su Homestead approdavano ai tempi i Pastels, uno dei gruppi più famosi e misconosciuti di Glasgow. Ma poi andremo a vedere nel corso della puntata chi arriva in casa Matador. Belle Sebastian e Mogwai, per esempio, e dillo tu, scusami, oh santa patata, gli Arab Strap, il duo di Glasgow, di cui il qui presente Terzariol ci ha anche selezionato un pezzo non mica da poco. Tutta questa gente è di Glasgow e tutta questa gente, nel momento in cui Matador apre una filiale, ossia il suo negozietto in quel di Londra, approda su Matador e ci rimane anche come un maiale sul divano. Andiamo a parlare di un altro gruppo famoso e, secondo me, proprio bello di Matador, che c'è parzialmente su Matador. Qui stiamo adesso nell'ambito alunni. Vi sto per parlare dei Guided by Voice. Sì, giusto un attimo, io procedo di data in data, per cui te ne snocciolo solo un'altra dietro. Nel 1993, dopo l'unione dei due prima citati, Gerard e Chris, inizia una collaborazione molto più ampia, che sarà quella con la Atlantic Records per qualche anno. Copriremo quando si interromperà questa collaborazione e che casotti ci saranno. Nel mezzo, 1990-93, la prima vera esplosione di vendite per la Matador Records, grazie anche al primo lavoro di Teenage Fan Club dal titolo A Catholic Education. E adesso vai tu con i Guided by Voices. Tra l'altro è il momento in cui, più o meno, il periodo coincide a quando Raffaele Giordano rientra su Un Posto al Sole. Allora, Guided by Voices sono un gruppo, questo sì, dall'Ohio. Da Dayton, esatto. Dove c'è il circuito di Daytona, secondo te? Io credo di italianizzato, sì. Italianizzato, se da Dayton a Daytona, perché non stiamo sparando boiate. Se la stiamo sparando, penso che avranno anche un minimo di dignità di non dircelo, okay, e lasciarci nella nostra ignoranza. Beh, i Guided by Voices nascono nei primi 80, sono una creatura di Robert Pollard, che fino a quel momento là è un maestro di scuola elementare. Ah sì? E invece dopo decide di avere influenze garage rock, per esempio, sì, rock psichedelico, rock progressivo. E Matt, tra l'altro. Matt nel senso di Matt Rock. Ah, ok. Un esponente italiano della scena che mi viene in mente sono gli Zu. Anche qui, referenze, diciamo, utili per catalogare i Guided by Voices: primi Pixies, primi R.E.M., i Cars in qualche modo. Beh, i Guided by Voices realizzano una serie di album, EP, eccetera, che passano completamente inosservati fino ad un momento in cui salgono alla ribalta con B-1000. B-1000 è un long playing che esce per Scat Records nel 94, da cui abbiamo scelto I Am a Scientist. E voi direte, cosa c'entra questo con Matador Records? Cosa c'entra questo con Matador Records? Grazie per avermi posto questa domanda. Allora, Matador Records realizza l'ultimo, nel 2004, l'ultimo CD dato alle stampe, l'ultimo disco dato alle stampe dai Guided by Voices. Dopodiché seguirà un tour di promozione al CD, ma già nel 2004, prima dell'uscita del disco, Robert Pollard aveva dichiarato in un'intervista: mi qua sere baracca e burattini. Molto bene, noi andiamo a scrivere il nostro biglietto di condoglianze in posta, un bel telegramma listato a lutto per i Guided by Voices, e intanto ce li andiamo ad ascoltare in questo speciale della Matador Records di Music for Youth. I Am a Scientist dei Guided by Voices. Siamo rientrati in studio Music for Youth, una puntata speciale sulla Matador Records, e siamo ormai alla quarta traccia, al Vise Favotto. Eh sì, allora siamo andati a sentire i Guided by Voices, come si diceva, abbiamo anticipato qualcosa sulla scena di Glasgow e ora torniamo a bomba, come dicevano gli americani poco prima di Hiroshima, ossia andiamo a parlare ancora una volta della scena di Glasgow con il gruppo che ci suggerisce Daniele Terzariol qui presente. Infatti ci fermiamo un attimo al punto di vista delle date e ci stalizziamo tra il 93 e il 96, e adesso invece andiamo a scoprire l'universo Arab Strap, che, come diceva bene Al, uno dei gruppi più rappresentativi della scena della Glasgowlandia da bere, sostanzialmente, che tu ben conosci. Sì, che uno dei gruppi che trova appunto ospitalità in casa Matador assieme ai Belle Sebastian e a un disco dei Mogwai che hanno licenziato recentemente la loro ultima fatica discografica. E pensa che mi ricordo addirittura il titolo, e te lo auguro: Hardcore Never Die, You Will. You Will, ecco. Infatti. Quindi l'hardcore ci sopravviverà. Io penso anche che sia vero in qualche modo. La scena di Glasgow che poi ha tanto adatto alla musica internazionale. Si faceva prima il nome dei Pastels. Un altro gruppo che gira e rigira in questa trasmissione sono i Jesus and Mary Chain, sì. Ma andate a mettervi Glasgow e band in quel che è Wikipedia e vedrete quante soddisfazioni vi dà quel sito lì. C'è anche un super gruppo, tra l'altro scozzese, e lo cito perché una parte degli Arab Strap è per l'appunto confluito all'interno di questo super gruppo. Si chiama Reindeer Section ed è capitanato dal cantante degli Snow Patrol. Esatto, sì. E più tutta una serie di altri bei personaggini che mi vengono da tutti quei territori un po' montuosi che tu ben conosci, sì, per sì, l'appunto. Tanto verde, tanta erba, dell'Aggis e delle pecore con la faccia nera. Beh, che cosa dire degli Arab Strap? Gli Arab Strap sono un duo, innanzitutto. Erano anche perché... Erano perché hanno smesso di darsi da far tra di loro, che detta così è un po' pessima. Producono un disco solo, sono nella categoria alumni per quanto riguarda Matador Records. Producono un disco solo, da cui noi abbiamo estratto che cosa? Abbiamo estratto The Shire Retrier, tra una cosa e l'altra è quella che ci piace anche abbastanza di più. E io posso aggiungere che sono andato a vederli a Bologna qualche anno fa, quando passarono per promuovere un altro album che ai tempi non era più, purtroppo, non era più su Matador Record, ma era The Last Romance, da cui potrei anche suggerire una canzone che a me piace tantissimo, che si chiama Don't Ask Me to Dance. Ma senza perderci in inutili, si può dire, stronzate in radio, ormai l'hai detta, andiamo a sentire che cosa? Noi andiamo ad ascoltarci The Shire Retrier. Shy, mi devi correggere nella pronuncia. Se volete farvi una panoramica molto più larga degli Arab Strap, c'è una sorta di best of che si chiama Enjoy Your Retirement Arab Strap 10 Years of Tears, e noi possiamo dirvi che questa canzone è inclusa anche nella compilation che vi ho appena detto, Arab Strap su Music for Youth speciale Matador Records. Swimming naked in the pond. You know I'm always more. Degli ottimi rappresentanti della scena di Glasgow, questi erano gli Arab Strap con The Shy Retire, estratta dal loro Best Of, che vi potete andare a rancurare, o invece potete anche ascoltarveli qua e farla anche finita sostanzialmente, se vi sembra una buona scelta. Ti sembra una buona scelta? No, cioè, cercateli i pezzi di questa gente, perché poveri hanno sempre bisogno. Sono bravi, dai, sono bei ragazzi, poi adesso sono pensionati. Music for Caritas. Si diceva a microfoni abbassati che la voce del cantante degli Arab Strap ricorda molto vagamente quella del cantante degli Y, che è un tutt'altro gruppo di hip hop un po' destrutturato dalla scena americana, ma soprattutto, anzi, ma vagamente anche Billy Corgan. Lo dico per un motivo e tra poco scopriremo perché, nel senso che interrompo qui il discorso e vi dico che questa è una puntata dedicata alla Matador Records e che non procediamo dal punto di vista delle date, o se volete anche sì, con una sola piccola parentesi. 1996, Capitol Records compra il 49% delle azioni, ma il duo Lombardi-Cosby, fondatori della Matador, riacquistano il pacchetto completo nel 1999. La storia della Matador Records continua e continuerà ora per voce e anche per mano di Alvise Favotto, che mette le mani sul computer e ci farà partire la prossima traccia degli Chavez, non prima di aver illustrato chi sono questi bei ceffoni. Allora, i Chavez sono una band che fa math rock, in sostanza, che nasce a New York nel 1993. Cosa fanno questi Chavez? In sostanza, negli anni 90 fanno due album che si autoproducono e che non entrano mai in una classifica. A questo punto Matador ha un grande momento di aiuto, in cui dà aiuto al prossimo, e nel 2006 realizza una raccolta che si chiama Better Days Will Haunt You, che raccoglie tutto il materiale, non solo questi due dischi ma anche un qualche EP random che i Chavez avevano fatto fino a quel momento là. I Chavez sono un gioiellino dell'underground newyorkese e statunitense in genere, quindi vi consigliamo di andarveli a scoprire, e partite proprio dal sito di Matador Records, che è tanto gentile, e ad esempio questa You Faded che andremo a sentirci ve la dà in regalo, se ve la potete scaricare gratuitamente. Una cosa interessante su questi Chavez è che sanno anche suonare, ossia il chitarrista, che si chiama Matt Sweeney, nel momento in cui i Chavez non avevano niente da fare, ossia erano fuori a mangiare gelati, eccola lì che arriva, ecco il perché il collegamento di prima, esattamente, vi anticipavamo che appunto il chitarrista Matt Sweeney ha, diciamo, aiutato Billy Corgan, ex Smashing Pumpkins, nel suo progetto Swan, ossia Cigno. Finita l'esperienza con gli Swan, che poveretti hanno detto anche loro basta alla vita, Sweeney ha detto torno con i Chavez, no aspetta un attimo, e ha realizzato nel 2005 Superwolf, che di chi è? Di Bonnie Prince Billy. Non c'entra niente, però è bello dirvelo. Ora torniamo ai Chavez, andate a sentirveli, soprattutto se vi piacciono come prima Sonic Youth, che sono il riferimento generale per quanto riguarda il catalogo Matador Records, e i Dinosaur Junior se vi piace qualcosa più di più, diciamo, emo, però quando l'emo come lo intendiamo oggi ancora non c'è. Un ultimo riferimento, e qui ha sempre a che fare un po' Billy Corgan, che unisce Matt a uno dei suoi idoli, perché un po' questi Chavez prendono anche dagli Slint e chi c'era negli Swan assieme a, per l'appunto, a Matt e Billy Corgan, anche David Paio degli Slint, per cui si sono uniti in matrimonio anche loro. E c'era Rose Rosse e Tanto Amore. Andiamo a sentire sui 102.2 di Radio Sandonai, sui 97.8 di Sherwood, You Faded. You Faded dei Chavez. Siamo ritornati, speciale Matador Records per Music for Youth. I riferimenti per una volta li faccio io, se vuoi, Favotto. Prego. 0421 560993 è la radio per telefonarci. 0421 560994 è il fax. radio@radiosandona.it. I riferimenti in internet www.radiosandona.it. Il sito è tutto nuovo e fa sicuramente più bello del nostro programma, che invece fa cagare. E anche di noi. Su Sherwood abbiamo la nostra pagina in Facebook, Music for Youth On Air, ma soprattutto il nostro blog musicforyouth.wordpress.com per recuperare questa, che è una puntata speciale sulla Matador Records, e anche le altre tre che abbiamo fatto: Rough Trade, Touch and Go e qual era l'altra? Mowalks. Bravo, vedo che sei preparato. Nonché tutte le altre puntate in MP3, podcast e streaming. Siamo alla Matador Records, come si diceva, e siamo approdati all'anno 2000, perché avevamo appena chiuso col 1999 con Lombardi e Cosmi, che si riacquistano il pacchetto intero di azioni alla Matador Records dopo averle cedute parzialmente alla Capitol nel 1996. Che cosa mi succede nel 2000? Nel 2000 mi arriva Justin Timberlake, che nel film The Social Network interpreta il fondatore di Napster. Nascono i social network, però del file sharing. Napster era il primo tra i tanti, e gli altri ce li avete ben presente perché li usate tutti i giorni, è inutile che dite di no. Ai tempi c'era anche il Nutella, che era questa cosa italiana. È vero, eh? Che, diciamo, prendeva le mosse da Napster, ma in maniera casereccia. Era carino, io lo avevo. Allora, che cosa mi succede? Che ovviamente salgono le barricate per la RIA. E che cosa mi rappresenta? Un'istituzione fascista? No, ebbene no. Recording Industry Association of America. Sostanzialmente tira insieme tutti i grandi capi e le etichette, presumo, tra una cosa e l'altra. Fa voto. Penso di sì. C'è un Warner, EMI, tutta Atlantic, Parlophone, tutti insieme riuniti in questa grande associazione sindacalista, capitalista, che vuole far secchi gli utenti che scaricano musica illegalmente da internet. Hola, bene. Matador Records cosa dice? Fa una telefonata per sapere ma come vanno le cose, com'è che vi regolate, e finisce automaticamente nella lista degli aderenti alla RIA Records per cancellare Napster e tutto il meccanismo di file sharing. Ma Matador questo non lo voleva assolutamente fare, ne nasce una causa lunga qualche anno. Finalmente Matador nel 2003-2004 riesce a farsi togliere da questo super listone della RIA, degli sostanzialmente di quelli che si oppongono allo scaricamento del file da sistemi di file sharing P2P. Il famoso super listone. Listone Balasso sostanzialmente, te lo ricordo. O anche listone Giordano, quello del parquet. Torniamo a noi a parlare di quello che è il rooster di Matador Records e praticamente andiamo con un gruppo che giustamente si sta prendendo dei meriti che ha e che sono passati per un bel periodo, diciamo, praticamente misconosciuti. Si tratta degli Spoon. Gli Spoon licenziano per Matador Records solo un singoletto, ma a noi interessava portarli alla ribalta un po' perché sono un po' nelle nostre corde, nelle sonorità di Music for Youth in genere, e anche perché finora non hanno avuto, soprattutto in Italia, il successo che ampiamente meritano. Dispiace perché dal 94 che sono sulle scene e solo con gli ultimi due album, noi ascolteremo di questi due album l'estratto dal primo. Il primo si chiama Ga Ga Ga Ga Ga, 5 volte se ve lo tenete a cercare. Tra una cosa e l'altra il pezzo è Don't You Eva, e il nome Spoon è in onore di una band tedesca degli anni 70, i Ken, il cui maggiore singolo era per l'appunto Spoon, brano anche della colonna sonora del film Das Messer, il cucchiaio. A quanto pare, ma non so perché. Ma pensa, beh, come si farebbe come con ogni minestra, andiamo a gustarci gli Spoon. Questa è Don't You Eva, lo speciale Matador Records di Music for Youth. Jim, can you record the talk back? Record that, Jim. Spoon con Don't You Eva dall'album Ga Ga Ga Ga Ga. Questa è una puntata speciale sulla Matador Records. Siamo tornati in studio. Sto per cedere la parola a Favotto, che ci illustrerà la sua ultima traccia portata per questa puntata. E riprendo un attimo il filo della Matador Records. Dopo faremo tutto il ricapitolo finale dal 1989 in avanti. Eravamo rimasti solo al cosa? Allo scazzo, sostanzialmente, chiamiamolo così, con la RIA. Al momento delle baruffe ciosotte in cui la Matador e la RIA si lanciano le stoviglie della cucina. Beh, e sostanzialmente sai che cosa è successo, Favotto, dopo? No. Un bene amato niente tra una cosa e l'altra, perché la puntata sta andando verso la chiusura. Loro hanno risolto gli smazzi con la RIA e, insomma, carriera in ascesa per la Matador Records, la label che continua a produrre fior fior di artisti, tra cui vogliamo citare Io La Tengo, quasi l'intera produzione, Cat Power, Sonic Youth, Pizzicato Five, Pavement, i John Spencer Blues Explosion, Belle and Sebastian, Mogwai, Boards of Canada, Arab Strap, Modest Mouse. Alcuni di questi li abbiamo sentiti, altri nomi sia della famiglia, per dire, sia gli alumni, che sono quelli passati in Matador, li potete rintracciare per l'appunto sul sito ufficiale della Matador Records, così vi sbobinate un po' tutto il catalogo e vedete che cosa vi può piacere. Questa era solo una vaga panoramica di tutto quello che potete trovare all'interno del roster per l'appunto della Matador Records. Ci aggiungiamo anche che nel 2009 Matador Records ha elaborato una sua sottoetichetta che si chiama True Panther Sounds e ci ha messo dentro una serie di persone, tra cui ad esempio i DeLorean, che sono giovani emergenti di belle speranze, giovani e carini, e li mette tutti lì e sono secondo me accomunati invece da un po' qualche deriva un po' più elettronica. Poi Matador Records continua a sfornare successi e un album recente che ci è piaciuto qui a Music for Youth è stato questo Hippies, licenziato nel 2010 ad aprile precisamente, sempre da Matador Records e a nome degli Harlem. Chi sono gli Harlem? Cosa mi rappresentano, oltre che un quartiere in New York da 4 skei? Allora, gli Harlem sono un duo, un chitarrista, un batterista. Si alternano anche, ossia quello che suona la chitarra ogni tanto suona la batteria e viceversa, e cantano tutti e due. Ogni tanto hanno dei bassisti random. Si formano dove? A Austin, in Texas. Austin è famoso perché tutte le persone a Austin sono potenti, e da lì infatti Austin Power. A questo punto questi si formano e dopo l'università cosa succede? Scelgono tutti dei nomi assolutamente radio friendly, come ad esempio Coomer's Explosion, che fa pensare a tante cose che iniziano per E e finiscono per iaculazioni. Però perché? Perché uno dei due componenti si chiama Coomer's di cognome. Ma se non bastasse questa prima scelta, ma che simpaticoni, ma se non bastasse questa prima scelta passano a Smart Pussy, ossia patata intelligente. Anche questa è una buona scelta. Pensavo smart nel senso di piccola e quindi portabile. Esatto, sì sì. Infatti la passera la fa la Mercedes. Tornando a noi, che cosa succede? Si trovano in quel di Austin e lì entrano random in una compilation che si chiama Casual Victim Pile Austin 2010. È una compilation che raduna un po' tutta la, diciamo, la fauna underground che c'è in quel di Austin nel 2010. Loro lì vengono notati da Matador Records, che decide di sostenerli, supportarli, e quindi nell'appunto nell'aprile 2010 danno alla luce il loro album Hippies, da cui noi abbiamo tratto un altro titolo radio friendly, Gay Human Bones. Questi sono gli Harlem sui 97.8 di Radio Sherwood e sui 102.2 di Radio San Donà. Questi erano gli Harlem, speciale Matador Records per Music for Youth, e siamo arrivati in finale di puntata, Favotto. Eh sì, le cose belle durano poco, come dico sempre. A questo punto noi innanzitutto cominciamo con lo scusarci con i fan che ci ascoltano di tutti i gruppi che per motivi di spazio barra tempo non siamo riusciti a mettere, e sono tantissimi, e quindi vi invitiamo a scriverci nel nostro blog, che è musicforyouth.wordpress.com, oppure a telefonarci allo 0421 560993, o mandarci una mail a radio@radiosandona.it con degli insulti misti a degli allegati che possano essere il virus Welcome to Alabama, quello che ti fa venire giù il sangue dallo schermo, per spiegarsi. Ma che schifo. Lo fa. Ma Avira lo riconosce? Penso di sì, perché è un virus molto vecchio. Siamo a posto. Stavamo dicendo storia della Matador Records. Vuoi che ti faccio un ricapitolo proprio di quelli veloci veloci? Sì. Bene, dall'89 I giorni nostri si comincia, inizia l'avventura di Chris Lombardi nel 1989. Nel 1990 incontra invece Gerard Cosby, che sarà il suo partner, anzi lo è anche attualmente, per l'avventura con la Matador Records. L'amico Cosby invece arriva dalla Homestead Records. Nel 93, collaborazione con l'Atlantic per qualche anno, che si interrompe nel 96 con la Capitol, che compra il 49% delle azioni di Matador, poi riacquistate nel loro pack intero da Lombardi Cosby nel 1999. Beggar Group collabora con Matador dal 99 al 2002 e fanno anche a tempo ad aprire una succursale europea a Londra, dopo essere partiti dall'America. Tra gli artisti più rappresentativi li abbiamo già citati: Io la tengo, Sonic Youth, Pavement, John Spencer Blues Explosion, Belle Sebastian per la scena scozzese e tutta un'altra bella serie di cose. Siamo arrivati in finale di puntata, non ci resta che Cat Power per chiudere abbastanza bene e in maniera soffice la Matador Records. L'abbiamo spiegata, possiamo anche andare a dormire tranquilli. Esattamente, Cat Power, che ha tutta la sua discografia praticamente incisa per Matador Records. Cat Power che raggiunge il successo qualche anno fa, credo nel 2009-10, e ci regala grosse soddisfazioni, tra cui questo pezzo che siamo andati a scegliere, che viene dall'album di cover, forse. Sì, si chiama The Cover Records per l'appunto, e è più o meno a metà del suo lavoro in Matador, cioè per tutti gli album dovrebbe essere più o meno alla sesta produzione, se non alla settima. Io vi consiglio The Moon Peaks, che a me piace particolarmente come album. Anche Cover Records regala qualche soddisfazione. Qui si parte con Satisfaction dei Rolling Stones. Esatto, Cover Records ha di bello il fatto di essere particolarmente eclettico, ossia Cat Power spazia molto nelle scelte di chi coverizzare. Qui si cimenta con una cosa mica da poco, e mentre i Chumba Wamba ci salutano, si cimenta con una cosa mica da poco, ossia una cover dei Rolling Stones e niente meno che Satisfaction, e le riesce anche bene. Aveva fatto a tempo a coverizzare I Found a Reason nel film V per Vendetta, che è una traccia invece che è dei Velvet Underground. Sì, non sceglie mai bersagli semplici, la nostra donna. Bene, così, se prendesse parte a un torneo di caccia e pesca, probabilmente vincerebbe lei. Salutiamo Alvise Favotto, lo ringraziamo per le perle di questa settimana e anche per la collaborazione in questa puntata etichetta sulla Matador. Io invece ti ringrazio per la tua enorme bellezza con la quale ogni giorno mi delizi, me come anche del resto tutto l'universo femminile. Cat Power, I Can Get No Satisfaction, su Music for Youth, lo speciale sulla Matador Records, si conclude ora. Thank you. than that, and I'm trying to make some more. Baby, baby, baby, come back. Can't you see? I'm on a losing streak. Signing that